Va ora in onda Note, a cura di Giacomo Sapienza. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo che potete diventare fan della nostra pagina Facebook cercando CRM Happy Radio e cliccando sul bottone classico col pollice all'insù mi piace. Ma se andate su Facebook, mi raccomando, cercate anche Francesco Liberto e la sua pagina Cefalù Tamo, l'ultima diva. E con noi infatti Francesco Liberto, lo abbiamo ospite in studio assieme ad Angelo dei Master Photographs. Buongiorno a tutti, grazie Giacomo per avermi invitato, grazie a CRM. Sì, siamo praticamente con la rappresentanza del set del tuo ultimo cortometraggio. Io ho scritto una dichiarazione d'amore per Cefalù. Sicuramente. Allora, la domanda classica è quella: come è nata l'idea, quando è nata? E poi parliamo dell'aspetto tecnico con i super tecnici fotografi di Master. Allora, l'idea di questo cortometraggio su Cefalù è nata 4 anni fa. 4 anni fa, in occasione, penso 4 anni fa o 3 anni fa, adesso non ricordo, comunque in occasione del Vespa Day. Perché in concomitanza abbiamo fatto con Angelo e Gaetano delle foto inerenti al Vespa Day, quindi fatte a Piazza Purgatorio, Piazza Crispi, e in quell'occasione casualmente è nata l'idea, visto che avevamo fatto riferimento agli anni 50, alla Dolce Vita, abbiamo pensato, mi è venuta l'idea di fare proprio questo spot su Cefalù, ambientato in quel periodo, con l'idea di una diva degli anni 50 che arrivava in questa città, si innamorava e scopriva l'amore. Angelo e Gaetano, Angelo immediatamente ha sposato subito questo progetto, perché ha detto, dice, è un progetto bellissimo. E allora a questo punto mi ha detto, dice, Francesco, devi, però l'idea di tutto questo a me piace, a noi piace, e devi però disegnarcelo, perché sennò non riusciamo a capire effettivamente tutte le cose che dobbiamo realizzare. E io ho detto, vabbè, appena ho un minuto di tempo lo disegno e a questo punto partiamo. Sono passati in pratica 3 anni perché non riuscivo, provavo sempre a disegnarlo, però alla fine non veniva fuori ciò che volevo. Un giorno, a dicembre invece abbiamo fatto un servizio fotografico quest'anno, a distanza di 4 anni, abbiamo fatto un servizio fotografico con Angelo e abbiamo avuto come modella Federica Incaprera per questo servizio e abbiamo parlato a Federica di questo progetto. Anche Federica immediatamente ha sposato quest'idea e a distanza dopo di 10 giorni Federica mi ha incontrato e mi ha detto, dice, ma Francesco, ma quando è che in pratica disegni questo cortometraggio in maniera che partiamo con le riprese? Devo dire che Federica è stata, mi ha dato l'input per disegnarlo e in giro di 2 giorni ho disegnato questo cortometraggio e sono andato dai ragazzi a dire, ecco, c'ho questo foglio in mano, lo hanno aperto e hanno visto in pratica la traccia di quello che sarebbe stato Cefalù Tamo, l'ultima diva. E allora, la scelta dei protagonisti, una l'hai nominata, Federica Incaprera, una ragazza che conosco perché ho avuto la fortuna di averla un anno alunna nella mia piccola esperienza, durante la mia piccola esperienza scolastica, e poi Sergio Culotta, una vera rivelazione che avevo visto soltanto impegnato nel settore della moda, e così in effetti anche per Federica, che tutti conoscevamo come modella, splendida modella, ma nelle foto, e ringraziamo anche Master e te in qualità di regista, veramente una diva anni 50, ma anche una diva hollywoodiana eccezionale. Devo dire che la scelta di Federica, sia di Sergio, perché ho voluto puntare, siccome il film parla appunto di Cefalù, come cornice Cefalù, mi è sembrato più che giusto e doveroso che naturalmente gli attori protagonisti di questa storia dovevano essere assolutissimamente di Cefalù, e quindi la scelta è caduta su Federica, e poi in un secondo tempo la scelta è caduta su Sergio Culotta, come figura maschile e interprete di questo cortometraggio. Devo dire che la nostra scelta sicuramente è stata più che giusta, perché hanno rappresentato in pieno la nuova generazione di Cefalù e anche le nuove bellezze, perché bisogna dire che Cefalù è ricca di tanta gente che, insomma, lodevole anche come stanza fisica, e quindi abbiamo scelto loro. Allora si arriva finalmente al momento del primo Chuck. Se magari vuole intervenire Angelo di Master Photograph, allora come voi, come avete accolto dal punto di vista anche tecnico questa idea di Francesco Liberto? Diciamo intanto buongiorno a tutti. Abbiamo accolto questa idea con molto entusiasmo. Francesco è un nostro vecchio amico di data e diciamo abbiamo sempre affiancato Francesco un po' in tutte le sue attività. Scusa se ti interrompo, chi ci sta guardando in diretta streaming su crm.radio.it sta guardando anche il vostro filmato. Così magari se, mentre scorrono l'immagine, puoi anche parlarci sì. Tecnicamente di quello che stavate facendo. Beh, questa scena l'abbiamo girato il secondo giorno, perché cioè, eravamo sprovviste dell'auto che ancora non arrivava, allora la scena è venuta fuori il secondo giorno. Il primo giorno invece abbiamo girato la scena di Porta Terra, e facendo intervenire un po' a Maurizio, insomma, il cameriere e tutto quanto. Devo dire che quando ho visto per la prima volta sia Federica che Sergio, altro parlare di un progetto, altro viverlo in maniera diretta, e devo dire che tutto quello che avevo pensato nella mia mente poi alla fine si è avverato. Voi siete abituati a fare tantissime foto, tantissimi book fotografici. Ecco, questa esperienza come la valutate? Beh, sia per me che per Gaetano è un'esperienza nuova. Normalmente, essendo fotografi, diciamo che il video per noi è una cosa, sì, è un proseguo della fotografia, ma noi principalmente guardiamo il mondo fotograficamente. Perciò siamo lì, abbiamo ricostruito un po' in maniera di un racconto questa storia che secondo noi è una storia che veramente porta Cefalù a livelli altissimi sotto un punto di vista sia panoramico che di storia. Francesco Liberto, il regista e ideatore di questa iniziativa, ecco, come diceva Angelo, è un filmato che servirà a portare Cefalù anche nel mondo. Ecco, a tal proposito, quali sono le iniziative per la promozione di questo filmato? Allora, diciamo che insomma abbiamo iniziato, abbiamo fatto questo, l'abbiamo presentato, abbiamo girato, abbiamo presentato al pubblico cefaludese e anche alla stampa giorno 31 al cinema di Francesca. E devo dire che insomma quello che mi ha colpito di più durante, anche se pur breve, questo filmato, penso che sia già entrato nei cuori della gente di Cefalù. Noi l'abbiamo già messo su YouTube a sostegno di Cefalù e devo dire che insomma in pochi giorni abbiamo oltre 2300 visualizzazioni di questo video, che ripeto è a sostegno della città, perché ritengo che insomma uno spot pubblicitario come questo nostro possa attrarre turisti da tutte le parti del mondo. Diciamo che insomma ormai i tempi sono cambiati, la divulgazione avviene rapidamente col mondo di internet, quindi non è che abbiamo avuto subito, è stato che è entrato in pratica, è stato visionato da tanta gente, sia dai cefaludesi. Infatti l'appello che io ho fatto al cinema di Francesca, mi sono rivolto al popolo di Facebook, che ormai è un giornale ormai talmente grande, mondiale, che in giro di niente tutto si sa, e abbiamo in un certo qual modo, l'appello che ho fatto su Facebook è stato quello di dire che a tutti i cefaludesi di vedere il video e di condividerlo, perché è l'unione che fa la forza, in maniera da fare vedere questo video a tutti. Intanto dobbiamo dare per un attimo la linea alla regia. Con te ero. E ritorniamo in studio sempre con Francesco Liberto e Angelo di Master Photograph. Allora, abbiamo visto poco fa il filmato, un filmato particolare, perché quando arriva la diva sulla sua decappottabile anni 50, rossa, poi posa il piede a terra, all'improvviso il mondo diventa in bianco e nero, ma si colorano, come ho scritto io, mi sono permesso di scrivere, si colorano i sogni di tanti che guardano il filmato. Ecco, il significato di queste scene. Vabbè, Il film inizia a colori perché naturalmente siamo nella realtà attuale. Noi abbiamo pensato a questa strada perché molta gente dice ma arriva dal lungomare, ma perché lo sappiamo noi che arriva dal lungomare, perché conosciamo la nostra città, conosciamo il lungomare, però per chi vede naturalmente una persona che non è mai venuta a Cefalù pensa che questa è una strada che ha, dove in pratica transitano delle macchine che costeggia il mare, nel film certo, e abbiamo pensato appunto il film inizia a colori perché lei arriva nella realtà attuale. Il discorso è che poi quando lei arriva in albergo e mette il piede a terra, il tutto si trasforma in bianco e nero, ma il significato che si trasforma in bianco e nero è proprio quello di dire al turista: vieni a Cefalù e quando metterai piede a Cefalù la tua vita cambierà, perché non solo scoprirai le bellezze di una città, ma puoi scoprire tante cose, per scoprire anche l'amore, come succedeva anche nel passato quando arrivavano tante straniere che si innamoravano di Cefalù. Noi abbiamo a Cefalù nella nostra collettività tante signore che sono venute per il turismo e qua sono rimaste, si sono sposate, hanno dei figli, quindi insomma ripercorrere adesso succede un po' di meno rispetto a prima, e noi il nostro messaggio è quello di fare venire tanta gente qua a Cefalù a sostegno della nostra città. Indubbiamente Cefalù ha degli angoli stupendi, può confermarci Angelo Di Master quando fa anche i book per le tantissime spose che scelgono Cefalù come sette per il loro giorno più bello. Cefalù ha degli angoli, penso, ancora assolutamente pieni di fascino. Beh, Cefalù come location è ideale, almeno per quanto riguarda noi che oltre ai book facciamo anche i servizi di matrimonio. Perché? Perché è varia, cioè ci sono degli angoli che è veramente molto belli, c'è il mare, c'è il molo, abbiamo il bastione, insomma, poi c'è Piazza Duomo che è meravigliosa. Diciamo che, voglio dire, è molto ricca sotto tutti i punti di vista, perciò gli spunti per noi che amiamo molto l'immagine, l'inquadratura e tutto quanto è perfetto. Dicevamo nell'intervallo, siamo abituati a vedere a sguardo d'uomo, come si suol dire, il mondo che ci circonda. Voi avete scelto anche questa volta lo sguardo dall'alto. Sì, lo sguardo dall'alto perché normalmente noi umanamente guardiamo in maniera orizzontale. Allora, guardando orizzontalmente vediamo delle cose con un punto di vista, ovviamente da uomo, siamo, voglio dire, a un livello marittimo. Quando ci alziamo, vedendo un po', tanto in via Spinuzzo, quando c'è l'incontro fra i due, vedendo che questa pavimentazione di una via delle Spinuzzo, più belle di Cefalù. È una delle più belle di Cefalù, vedendo dall'alto è tutta un'altra cosa, nel senso che anche io facendo queste riprese ho goduto in vedere proprio questa pavimentazione. Anche una scena alla Corte delle Stelle. Bisogna dire che Cefalù è bello ovunque. Io noto, avendo tanti amici da tutte le parti del mondo, quando vengono qua a Cefalù, notano proprio tutto quello che noi non vediamo, anche il disegno delle strade, perché forse noi siamo talmente abituati ad avere queste cose sotto mano che magari non ci facciamo caso, e quindi valorizzare, come ha detto Angelo, guardando dall'alto, sicuramente è molto positivo. Perché, e poi mi sono accorto anche di una cosa, anche di molti cefaludesi che magari forse distrattamente, quando hanno visto la fotografia proprio presa dall'alto per quanto concerne la via Spinuzza, l'hanno scambiata per un'altra strada, e questo è gravissimo per me, per noi cefaludesi, perché uno mi ha detto, dice, ma questa strada, e ho detto, dimmi tu qual è questa strada, e quello mi ha detto, dice, la via Carlo Ortolano di Bordonaro. Ho detto, questo è gravissimo, perché questa cosa mi ha fatto pensare molto, e quindi insomma bisogna valorizzare tutte le nostre strade del centro storico e farle vedere a scopo divulgativo. Non so più a questo punto quello che devo dire. C'è una telefonata in diretta, soltanto per complimentarsi, ho detto sono alla radio in diretta, ci ascoltano. Niente, stavamo parlando naturalmente del film, ci scusiamo, ma in diretta ci telefono per complimentarsi, questo è un segno positivo. Questo mi fa piacere, immenso piacere, sia a me che a Angelo che a Gaetano. Abbiamo parlato però poco dei due attori dal punto di vista tra virgolette tecnico, e richiamiamo in causa ad Angelo. Ecco, come sono state? Hanno creato problemi per le riprese? Assolutamente, entrambi eccezionali, veramente. Io, cosa che voglio dire, normalmente io fotografo, normalmente fotografando persone, come dire, nella vita naturale, evidentemente ce ne rendiamo conto che facendo un piccolo cortometraggio ce ne rendiamo conto che le persone, magari non facendo realmente di mestiere gli attori, magari si potevano sentire un po' così a disagio. Ma niente di tutto questo, devo dire. Già Federica, le prime riprese, subito si era calata perfettamente nella parte della diva. Sì, effettivamente sì, è così, sì, perché sì, si è documentata, perché questo film, scusa se ti interrompo Angelo, certo. Però volevo dire che per questo film io poi mi sono ispirato un po' sia agli anni 50, ma facendo riferimento a grandi personaggi come Grace Kelly, come Sophia Loren. Infatti c'è una citazione appunto per Sophia Loren per quanto concerne le musiche, perché il primo pezzo, Bing Bang Bong, è appunto di Sophia Loren, prima perché insomma è italiana, poi perché è un'attrice internazionale, e ho volutamente mettere proprio questo pezzo di cui Angelo si è innamorato, perché vedevo proprio, perché l'inizio di questo film doveva essere con questa musica fischiettando un po', molto allegra, gioiosa, e poi insomma cantava Sophia Loren, e quindi a maggior ragione la scelta è caduta su di lei. Sì, musiche bellissime, poi abbiamo ascoltato, se non sbaglio, con Un bacio piccolissimo, e poi Frank Sinatra con Finale. Il bacio piccolissimo l'ho scelto io. L'ho scelto Angelo questo, perché abbiamo fatto anche una ricerca proprio degli anni 50, 60, anche se questo è più un po' anni 60, però cadeva proprio a pennello, perché insomma sembrava proprio che parlava proprio di loro due che camminavano, perché lui faceva da guida a questa diva che era arrivata a Cefalù. Esatto, arrivando a Cefalù, poi noi abbiamo girato questo piccolo cortometraggio in due giorni, l'abbiamo montato in 4-5 giorni. No, di cioè, più, perché ci sono tante ore di montaggio. Con Gaetano, no, veramente, ci sono messi lì a montare. Perché le riprese le ho fatte con Angelo, anche con Gaetano, però girava più Angelo. Poi in pratica il montaggio l'ho fatto con Gaetano, stavamo 4 ore. Salutiamo anche la figlia di Gaetano, che abbiamo visto impegnatissima. Praticamente ha fatto da fotografo di scena con il backstage, è stata molto brava. Infatti abbiamo fatto un manifesto poi per mettere al cinema. Beh, figlia d'arte, era normale che uscissero fuori delle belle fotografie. Niente, poi parliamo un po' di Sergio, che veramente è stato meraviglioso per un semplice motivo, perché ha perfettamente rappresentato l'uomo degli anni 50, con questo suo essere maschio, uomo maturo, che molto elegante, molto bisogna elegante, dire la verità, che vede una bellissima donna, allora con molto garbo e molta grazia cerca di conquistare. E poi un'altra cosa per tutti e due i ragazzi, che devo dire che ho scoperto due ragazzi che sono belli, colti e principalmente molto educati. Questa è una cosa che veramente mi rimane anche di questo, per l'averli scelto, perché sono veramente due persone, due ragazzi educatissimi. Questo grazie anche alle loro famiglie, che hanno trasmesso loro dei grandi valori, e devo dire che sia Sergio che Federica veramente rispettano in pieno questi canoni di educazione, che ormai penso che sono un po' persi. Sì, anche in questo, diciamo, questo loro anche per la vita sicuramente possiamo confermare un'educazione anni 50. Sì, loro ce l'hanno comunque nella nostra realtà. Nella nostra realtà sempre, diciamo. Sì. Sì, e questo ci ce l'hanno proprio come bagaglio personale, quindi è l'augurio che faccio a loro, che questo possa essere il loro trampolino di lancio, perché ormai facendo vedere il filmato in internet, loro sono appunto gli ambasciatori della nostra Cefalù nel mondo. Pensi che questo filmato possa essere utilizzato anche da enti vari, istituzioni varie, per essere portato in giro in manifestazione ufficiale. Ma guarda, questo è il nostro spot su Cefalù. Io mi auguro che da oggi in poi ci saranno tanti altri spot sulla nostra città, a sostegno della nostra città, che possa essere utilizzato. Questo noi l'abbiamo fatto, poi sta anche all'amministrazione se è interessata a poter. Io mi auguro anche che, per esempio, questo spot possa essere non solo condiviso dal mondo di Facebook, ma anche da tutti gli alberghi, perché i turisti, quando scelgono un albergo, possono anche trovarlo sul loro sito. Proprio potrebbe diventare l'immagine, però questo è naturalmente una proposta, non è che... Sì, come dicevi tu, il filmato all'inizio è disponibile su Facebook, su YouTube. Cliccare Cefalù Tamo, abbiamo scelto proprio questo, il titolo è proprio Cefalù Tamo e sottotitolo L'ultima diva. Oltretutto l'avete messo in maniera libera, scaricabile, sì. Anzi c'è stato l'invito a condividerlo tutti nelle proprie pagine Facebook. A sostegno della nostra città, non per altro, perché insomma non è che i protagonisti... La vera protagonista sicuramente è Cefalù. Vi chiamiamo in causa, Master Photographer, rappresentato oggi da Angelo. E allora, abbiamo parlato di questa esperienza, di questo spot veramente stupendo, lo riconfermo nuovamente. Da questa idea penso che possono nascere altre iniziative diciamo simili, magari anche per altri enti interessati nei comuni del circondario, enti sovraccomunale. Sì, noi onestamente non è che ci limitiamo a Cefalù, potremmo farlo, certo, un po' in tutta la Sicilia, non è che il progetto nasce qui e finisce qui. Però noi già con Francesco, con Gaetano, abbiamo pensato magari di voler fare una continuazione, anche perché per noi, oltre al lavoro e tutto questo, noi proprio amiamo questa tipologia di comunicazione. Cioè, per noi è importante anche comunicare cose belle alle persone. Non solo con la fotografia, ma anche con un racconto video, che è una cosa molto importante. Certo, l'originalità forse è stata proprio questa. Ieri ho scritto un'email al sindaco di Castelbuono dicendogli che noi abbiamo fatto questo cortometraggio, che lo invitava a visionarlo, e se lui è interessato noi potremmo rifare un qualcosa di simile, non dico ma sempre a scopo divulgativo, a sostegno di Castelbuono, per esempio, perché anche Castelbuono meritevole di tante bellezze. Sono due bellezze completamente differenti di città, però fanno parte delle Madonie, quindi a sostegno delle nostre Madonie. Certo, potrebbe essere anche molto interessante che un progetto del genere potrebbe essere finanziato dalla regione a sostegno della Sicilia, delle Madonie. Sono solamente delle idee che ho a sostegno delle nostre città. Sicuramente un'ottima iniziativa. Ancora una domanda ad Angelo. Master ha sempre voluto promuovere l'arte della fotografia, anche ha fatto dei corsi in passato. Ecco, oggi a Cefalù vedi senza fare nomi naturalmente, vedi dei giovani magari girando su Facebook o guardando i vari siti, ci sono dei giovani promettenti per la foto artistica? Allora, ormai considerando che la fotografia è arrivata a una divulgazione planetaria, perché tutti giustamente fanno i fotografi, ma la cosa bella della fotografia è proprio questo amore che ci sia nel comunicarlo agli altri. In Facebook a questo serve, a far vedere un po' realmente di cosa siamo capaci di fare, e secondo me è un linguaggio, nel senso come possa essere la poesia, la fotografia, insomma il film, insomma sono dei linguaggi che noi utilizziamo per dire qualcosa agli altri. La fotografia secondo me è questa, dico, poi al di là chi lo fa per lavoro, chi lo fa per hobby, sono delle cose abbastanza relative secondo il mio punto di vista. Io vedo la fotografia come uno sviluppo umano di ricerca, di progettualità anche, e di esperienza, perché i corsi che abbiamo fatto in passato, noi della Master, serve proprio per questo, per sì dare un po' l'ABC, la tecnica e tutto quanto, ma per mettere in condizione le persone di amare anche la fotografia, cioè di divulgare il loro modo di essere, il loro estro, il loro modo di vedere le cose. Noi, per noi è importante questo, infatti dopo 25 anni siamo qui proprio perché anche noi, essendo innamorati della fotografia, cerchiamo sempre di conquistarla, o meglio di farla propria, nostra, ognuno nel suo modo, nel suo essere, cercando un po' di comunicare questo agli altri. Quindi cambiano le tecniche, cambia, si evolve l'apparecchiatura fotografica, però poi l'estro è sempre fondamentale. Assolutamente, sì, certo. Ma è una cosa che va coltivata, non è che nessuno ce la devi scoprire, se non la scopri tu non, nessuno te la può insegnare. Certo, io penso che come per un pittore non basta che io compri pennelli e colori per fare un bel quadro, così non basta avere una macchina fotografica con migliaia o milioni di pixel per fare una bella foto. L'estro poi... Assolutamente. Poi ogni occhio ha una visione completamente differente l'uno dall'altro. Certo. Cioè, quindi proprio il risultato è proprio dalla visione che ognuno di noi ha nelle cose che vede. E naturalmente quando si uniscono due talenti, in questo caso Francesco Liberto è il secondo master photograph nella sua interezza, con tutto il suo staff, naturalmente è venuto fuori quello che abbiamo visto, cioè il massimo della tecnica. Io ritengo che questo, e della poesia. Questo è l'inizio. Io non è che avevo fatto mai un cortometraggio. Io mi sono sempre occupato di moda, di pittura. Per chi mi conosce sa quello che faccio tanti anni di fare lo stilista. Però ritengo che questo cortometraggio, Ce Falutamo, ritengo che sia una delle cose più belle che io abbia fatto in 27 anni di attività. Quindi ritengo che è l'opera più bella. Sì, per me è l'opera più bella, perché la prima volta che quando l'ho visto così tutto montato, mi sono molto commosso. Commosso, sì, perché questo ve lo posso dire. Torniamo in studio soltanto per i saluti, ma prima una brevissima nota che ci arriva dal comune di Lascari. Questo pomeriggio alle ore 17, conferenza sul tema il rilancio dell'agricoltura per la salvaguardia del paesaggio e il mantenimento dei livelli occupazionali. Riconoscere il ruolo multifunzionale dell'agricoltura e definire interventi di sostegno per i territori fortemente frazionati. E questo è il programma che inizierà alle ore 17 nell'aula consiliare. Parleranno Gaetano Gimò, responsabile regionale della programmazione, assessorato risorsa agricola alimentare, Carmelo Travaglia del commissario GIA e Antonio Terrasi, direttore provinciale GIA Palermo, Maurizio Lumetta, componente ufficio regionale GIA Sicilia, Angelo Pizzuto, presidente del Parco delle Madonie, Bartolo Vienna, presidente GAL ISC Madonie. Interverranno poi gli amministratori del comprensorio e rappresentanti delle associazioni di categoria. Questo invito ci arriva direttamente dal sindaco Giuseppe Abate. Poi un annuncio che riguarda il nostro regista abituale, oggi invece c'è Angelo Arduino alla regia, il regista abituale che è Santi Genovese, perché domenica alle ore 18 al Caffè Letterario La Galleria presenta la sua manifestazione Astro d'Argento, giunta, se non sbaglio, alla 24esima edizione. Ci saranno circa 40 concorrenti che si esibiranno per circa 2 minuti ciascuno al Caffè Letterario La Galleria, appunto di via 25 Novembre a Cefalù, domenica alle ore 18. Poi vi ricordo a Castelbuono domenica mattina un convegno sul Parco delle Madonie organizzato dal Lions Club Cefalù, dove si parlerà delle prospettive di sviluppo del territorio alla luce di quanto propone il Parco delle Madonie. Ci sarà il presidente Angelo Pizzuto e il direttivo Lions di Cefalù, ma tantissimi anche altri relatori esperti in materia. E questo per oggi è tutto. Come al solito, puntualissimi alle 12.50 andiamo a concludere la trasmissione Note, condotta in studio da me, Giacomo Sapienza, alla regia oggi il direttore di CRM è Pierrerio, direttore ed editore Angelo Arduino. A tutti voi che siete stati in ascolto, una buona giornata. Avete ascoltato Note, a cura di Giacomo Sapienza.